9 gennaio del 2014, mi si apre, ecco, finalmente la pagina della scaletta di quest'oggi. Allora, il cinema su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15, ma visto insomma questo periodo che ci attende prima delle 14, diamo inizio con un po' d'anticipo, considerati anche gli ospiti che ci sono quest'oggi. Stiamo per concludere la questa specie di gioco con le cinquine dei migliori film a nostro avviso tra quelli usciti in sala nel 2013, e poi avremo altri ospiti sia per le uscite in sala che alcune rassegne. E poi tutte le informazioni le trovate comunque sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, con le uscite in sala di quest'oggi, giovedì 9 gennaio, i nostri indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti della settimana, il link per riascoltare la puntata precedente e anche tutte quelle del 2013. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, l'indirizzo di posta elettronica, e poi per quanto riguarda Facebook c'è anche la pagina Visionari. Cominciamo con gli ospiti. In collegamento con Claudio Longhi, curatore della rassegna L'Europa che ride alla Casa del Cinema da domani 10 gennaio fino al 2 febbraio. Claudio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno. Allora, L'Europa che ride, diversi appuntamenti, di cosa si tratta? Dunque, si tratta di una rassegna cinematografica che è stata organizzata in collaborazione con il Goethe Institute, la Casa del Cinema di Roma e l'EUNIC, cioè l'associazione che riunisce gli istituti di cultura dei paesi europei, dell'Unione Europea a Roma, e è una rassegna che intende affrontare sostanzialmente il problema dell'identità europea attraverso il côté comico. Mi spiego meglio. Ormai da mesi, se non da anni, siamo abituati a pensare all'Europa come a una sorta di perpetua emergenza economica. Di fatto forse l'Europa può essere anche qualcos'altro, l'Europa è anche un incontro di tradizioni, di culture, e ci sembrava che un modo interessante di riflettere sull'Europa fosse ragionare per l'appunto sulle varie identità nazionali messe a confronto attraverso dei film che raccontassero un poco i caratteri delle varie nazioni europee. Allora, quali sono i paesi coinvolti? Quanti gli appuntamenti? Dunque, i paesi coinvolti sono l'Ungheria, la Germania, la Spagna, la Polonia, la Finlandia, la Romania, la Slovacchia e l'Austria. Sono in tutto 8 film che vengono proiettati durante il fine settimana dal 10 gennaio al 2 febbraio. Le proiezioni sono il venerdì e la domenica, una proiezione in serale e una proiezione in pomeridiana, nell'arco di queste tutte le proiezioni si svolgono alla Casa del Cinema, e nell'arco di queste 4 sabati e 4 domeniche vengono proiettati gli 8 film. È prevista anche previsto anche un momento di incontro magari con gli autori, se sono invitati oppure no? No, questo non è previsto. I film sono in lingua originale, sottotitolati in italiano. La rassegna avviene nel quadro di un progetto più ampio che sto curando per conto del Teatro di Roma, sì. Che è il Ratto d'Europa. L'iniziativa infatti è nata dal Goethe Institute romano, avevamo incontrato il Goethe Institute all'interno di questo, nell'ambito di questo progetto più ampio, che è un progetto che riguarda, per l'appunto, come accennavo prima, una riflessione sulla sui tratti costitutivi, sul radicamento dell'unità europea in forme un po' meno convenzionali di quelle a cui siamo abituati, e che porterà a uno spettacolo che sarà presentato al Teatro Argentina a fine aprile, primi maggio. Avevamo incontrato il Goethe Institute per chiedere, per l'appunto, quale tipo di contributo potevano dare a un percorso di questo genere. Loro ci hanno parlato di questa ipotesi di rassegna cinematografica. Ci sembrava un'ipotesi interessante, stimolante, e da lì è nata poi la collaborazione con l'EUNIC, che attualmente è presieduto dall'Accademia di Ungheria. Tra l'altro, il primo film che viene presentato è, per l'appunto, il film ungherese, il titolo è Poligamia, e noi abbiamo aiutato a mettere in relazione gli istituti con la Casa del Cinema per creare la manifestazione stessa. Bene. Allora, per saperne di più, ci sono dei riferimenti internet? Sì, tutto il programma della manifestazione è possibile recuperarlo al sito del nostro progetto, e l'indirizzo internet è www.irrattodeuropa.it. Benissimo, Claudio, io ti ringrazio e a risentirci presto. A risentirci presto. Grazie mille. Buona giornata, ciao. Ciao. Claudio Longhi, curatore della rassegna L'Europa che ride alla Casa del Cinema, a partire da domani 10 gennaio fino al 2 febbraio, con 8 film in programma. Allora, Luca Peretti, che però è in metropolitana, spero che tu mi senta abbastanza bene, Luca. Io ti sento benissimo. Allora, con te per parlare del libro di cui sei coautore, il libro Immagini di Piombo, Cinema, Storia e Terrorismi in Europa. Devo dire che appena mi è arrivata questa mail ho avuto un paio di sobbalzi. Tu sai che questa è una radio politica, particolarmente quindi attenta al linguaggio, e quindi già l'espressione anni di piombo mi è parsa estremamente limitativa e tetra per rappresentare una stagione di conflittualità di massa, come è stata poi, soprattutto per quanto riguarda questo paese, il decennio 70, ma non solo. E poi nel sottotitolo, quel terrorismi, come tu sai, sì, chiaramente ne abbiamo già parlato, della strumentalità con cui i governi utilizzano questo termine per creare il mostro, il nemico, riguardo a quei soggetti che fanno della lotta armata, della violenza, un mezzo di confronto politico in vista rivoluzionaria. Insomma, va bene, queste erano le premesse che ti volevo fare. E però poi, considerato anche che tu sei stata una voce di questa trasmissione, hai una giovane età che secondo me aiuta anche in quest'ambito di ricerca a non essere pregiudiziale, e poi hai avuto anche interlocutori importanti come Roberto Silvestri, Gianfranco Pannone, Susanna Pellis, che è l'anima del festival di cinema irlandese che si svolge ogni anno qui a Roma. E detto questo, parlaci un po' di questo progetto e da cosa nasce, Luca. Sì, guarda, il libro raccoglie una serie di articoli e di diversi autori, come appunto Roberto, Susanna e un'intervista a Gianfranco Pannone. E l'uso del termine terrorismo, diciamo, prima cosa, abbiamo appunto evitato il più possibile di usarlo all'interno del libro e di sostituirlo con appunto altre diciture come lotta armata, militante e via. È rimasto nel titolo, ma è rimasto in una formazione il più neutra possibile, cioè nel libro, diciamo, non vogliamo esprimere giudizi, ma è una definizione, diciamo, in qualche modo accademica che comporta azioni veloci, clandestinità, ma non ci interessa appunto stabilire all'interno di questo libro chi sono i buoni e chi sono i cattivi. E questo appunto mi richiamo anche a un film come quello di De Bosio, che era un compagno appunto degli anni 60, che si intitola Il terrorista, con Gian Maria Volonté, che sicuramente appunto non aveva un tono negativo, ecco, per rispondere a questa tua domanda. Un'altra cosa, Luca, come nasce questa ricerca? E poi ho visto che riguarda un po' l'Europa e lotte che hanno, per come insomma conosco la storia dei conflitti in questo continente, soprattutto l'Italia, la Germania, la Francia, e poi per quanto riguarda le lotte indipendentiste, i Paesi Baschi e l'Irlanda, sì. Il libro nasce in primis da un convegno che si fece alcuni anni fa all'interno di un festival. Ci sembrava appunto che i libri che erano usciti fino a quel momento sul cinema e anni di piombo fossero, e in realtà ancora siano, abbastanza pochi, e quindi ci andava di provare a colmare in parte questa lacuna. Giustamente tu parli d'Europa, per noi quello era fondamentale, diciamo, inserire questi nostri articoli all'interno di una dimensione transnazionale, almeno europea. E è chiaro che vanno fatte una serie di distinguo, e in questo senso noi abbiamo lasciato la massima libertà agli autori, e abbiamo messo sotto appunto all'interno di uno stesso libro sia gli indipendentismi sia altri generi di lotte armate, però appunto l'idea che per fare di queste cose bisogna almeno parlare a livello europeo era per noi fondamentale, e ci sembrava, diciamo, anche un po' un limite di altri libri che vogliono rinchiudersi in ambiti regionali e sfuggendo ad alcuni, appunto, alla comprensione di alcuni fenomeni, anche per quanto riguarda il cinema. Ecco, ecco Luca, tu dicevi di una bibliografia piuttosto limitata. Ecco, in questo, almeno per quanto riguarda soprattutto questo paese, i conti col passato si sono fatti poco, c'è una sorta di rimosso, e quella storia è stata scritta per lo più dai tribunali. Ecco, in questo senso vale anche per il resto d'Europa questo discorso, e secondo te come è stata affrontata questa tematica anche negli altri paesi? Sì. Guarda, basta che guardiamo a questa serie TV che fare su Rai 1, dove gli stereotipi sono sempre comunque, questo appunto forza poi anche a una certa difficoltà di fare film e serie TV in questo paese, che cercano di costruire una complessità. No, lo abbiamo perso, cerchiamo di recuperare il contatto a breve, ecco. Allora, nel frattempo siamo in collegamento con il regista Maurizio Nichetti, con cui parleremo dell'iniziativa, della rassegna che ha dedicato al suo cinema, il Laboratorio Bizzarro Magazine, al Cinema Trevi qui a Roma, oggi e domani 9 e 10 gennaio. Maurizio, intanto ben ritrovato, perché noi ci siamo sentiti in più occasioni quando eri direttore del Festival di Cinema di Trento. Di Trento, sì, vedi che poi alla fine è bello cambiare sempre. È un piacere ritrovarti. Sono tornato al cinema, diciamo, di commedia. Sì, è un piacere ritrovarti, Maurizio. Allora, grazie. Intanto volevo chiederti rispetto al cinema, ecco, è un po' che non ti si sente. Che ne è del tuo fare cinema? Ma dunque, guarda, in questo momento, cioè, parliamo proprio di questi mesi, ecco, mi sto occupando del centro sperimentale nella sede di Milano, sì, che è una sede del centro sperimentale di Roma, ma dedicata al cinema d'impresa e di pubblicità. ma soprattutto è un osservatorio, diciamo, didattico, che mi permette di approfondire tutte le rivoluzioni che stanno accadendo in questi anni, in questi mesi, sul versante tecnologico, perché negli ultimi 3 anni, da quando la Canon ha fatto uscire la macchina fotografica digitale che può far cinema in alta definizione, sono cambiate tutte le regole del set, delle troupe, cioè è veramente stata una rivoluzione che ha rivoluzionato anche la didattica, anche l'insegnamento del cinema, per cui avere un impegno proprio in prima fila con i ragazzi, con le scuole, mi sembra in questo momento una cosa molto interessante. Sì, poi sì. Quando riuscirò a mettere in piedi altri progetti, senz'altro tornerò al cinema, perché diciamo che è sempre la cosa che mi diverte, mi piace di più, ecco. Sì, sì, sì. Allora, tu hai realizzato la prefazione, se non sbaglio, di questo volume della Bizzarro, sì, Magazine, Game Drome, Cinema e Videogame in 100 film e oltre. Ecco, parlaci un po' di questo progetto e cosa ti ci ha avvicinato. Ma dunque, tu sai che tutte le storie del cinema che sono passate da Godard e non solo, ma sono passate dai grandi critici, dai grandi studiosi di cinema, hanno sempre diviso il cinema tra Lumière e Méliès, tra realismo e Hollywood, contrapponendo la finzione cinematografica, lo star system hollywoodiano, al minimalismo del cinema neorealista, di cui noi poi come italiani siamo stati gli inventori e tra i maggiori interpreti. Ecco, parallelamente a questa macro storia del cinema, tra finzione, tra fiction e tra realtà, c'è stata anche una storia del cinema che è proceduta attraverso gli effetti speciali, attraverso quello che poi ha approdato al digitale, alla virtualità di oggi, al 3D, ai film dove non riesci più a distinguere il cartone animato dal vero. Sì, ecco, sì, tutto questo non è mai stato raccontato fino in fondo, e quando Bizzarro Magazine mi ha invitato a fare una prefazione, una riflessione sul cinema di interazione, di interattività, che chiaramente confina molto col videogioco, perché poi viene anche scavalcato nella sua accezione interattiva più spinta dal videogioco, mi ha invitato a nozze, perché in fondo è un cinema che a me è sempre piaciuto, cioè è sempre piaciuto raccontare la realtà con fantasia, e la fantasia la devi sempre rappresentare attraverso anche un effetto speciale, anche un qualcosa che realistico non è. E tutto questo negli ultimi anni ha avuto un'esplosione particolare, ecco, forse anche esagerata, se vogliamo, perché oggi è difficile anche per me, che sono un appassionato di questo genere, andare al cinema e distinguere fino a fondo quando una scenografia è vera, quando è virtuale, sì, quando sì, è disegnata, quando un attore è ricostruito e mosso attraverso un emotion capture piuttosto che un attore in carne ed ossa. Sì. Ecco, il futuro del cinema sarà sempre più verso frontiere virtuali, che non sappiamo ancora dove ci porteranno da un punto di vista creativo. Mm-hmm. E allora questa monografia sul cinema virtuale, sul cinema interattivo, sul cinema ludico, mi è sembrata una buona occasione per riflettere su questa rivoluzione tecnologica. E poi, in occasione della presentazione della rivista, hanno voluto presentare al Cinema Trevi 6 miei film, considerandoli chi più chi meno un po' antisignani di questa tendenza, ecco, penso all'interattività di Stefano Quante Storie o alla virtualità di Volere Volare. Ecco, tu parlavi, ecco, come accezione positiva rispetto a questo rapporto tra videogame e cinema, l'interattività, e però dall'altro io a colpo d'occhio di primo impatto storco un po' il naso, perché penso a una mancanza di idee che porta non solo spesso a saccheggiare l'ambito, per esempio, dei videogame, come stesso discorso poi che per i continui sequel dei film hollywoodiani di maggior successo che si susseguono l'un l'altro. Ma guarda, io, se non sbaglio, è una dichiarazione congiunta di Spielberg e Lucas, che di queste cose evidentemente ne sanno più di noi, perché poi creano le avanguardie su cui poi noi discutiamo, e dicono che tutto questo è una fase molto passeggera, perché il videogioco fino adesso ha solo rappresentato il cinema d'azione, cioè non ha mai rappresentato altri generi di cinema. Quando il videogioco si evolverà e diventerà noir, diventerà giallo, diventerà film sentimentale, forse non diventerà mai commedia, però è l'unico genere che non potrà riprodurre, tutti gli altri generi li potrà riprodurre, e diventerà un altro tipo di videogioco. Oggi noi siamo abituati a considerare il videogioco un video d'azione molto frenetico e molto superficiale, ma potrebbe assolutamente raccontare anche delle storie molto più realistiche, molto più sentimentali, sì, sempre con una componente interattiva. Questa è una frontiera che ancora non è stata, non certo, è stata affrontata. Del resto, e poi scusami, volevo anche dire un'altra cosa. Nella storia del cinema, ogni volta che è arrivata una nuova invenzione, penso al colore, penso al sonoro, per fare un esempio semplice, si è abbassata la qualità dei film. Cioè, i film in bianco e nero, muti, avevano raggiunto una sofisticazione di inquadratura, di montaggio e di luce, che nel momento in cui è arrivato il sonoro, è arrivato il colore, si è abbassata clamorosamente nell'immediato. Cioè, per 10-20 anni i film sonori e a colori erano più brutti dei film classici in bianco e nero, muti. E dopo hanno recuperato, perché quando il cinema metabolizza una invenzione, metabolizza una nuova tecnologia, riesce a produrre dei capolavori altrettanto significativi. Ecco, secondo me il digitale, la perdita della pellicola come supporto, l'effetto speciale, la tridimensionalità sono ancora troppo giovani per aver creato un cinema d'autore, però io sono sicuro che in futuro verranno metabolizzati e noi useremo tutte queste tecnologie non per rappresentare dinosauri o rappresentare elfi e nani, ma per rappresentare anche la vita di tutti i giorni. Certo, tra l'altro in aggiunta vedo che, insomma, come ricerca il libro parla di oltre 100 film, quindi immagino che ci siano titoli anche di rilievo oltre ai tanti. Assolutamente, sì. Non sono solo film, diciamo così, che parlano di videogiochi, sono certo, film anche che sono entrati nella storia del cinema, ma che in qualche maniera appartengono a un lato ludico del mestiere. Ecco, quello non significa che un film ludico non abbia contenuti, per carità. Ci sono stati dei film, cioè penso al Grande Dittatore di Chaplin, per dire che è un film fatto per divertire, ma nello stesso tempo parlava di Hitler, con Hitler vivente, in una maniera molto critica. Sì, per cui sì, insomma, sì. Fare un cinema che è rivolto al divertimento non significa fare un cinema superficiale. Noi purtroppo siamo un po' condizionati da certe commedie che, una volta che fanno ridere con degli schemi anche un po' risaputi, si accontentano di quelle e basta. In realtà la commedia può essere messa in maniera esemplare al servizio di un contenuto e di una, anche come dire, un insegnamento, se vogliamo, sociale o politico verso il pubblico, che è molto più efficace del film a tesi. Sì, perché il film a tesi convince solo quelli che la pensano già come te, mentre un film ironico, un film di commedia che tratta un argomento serio può convincere anche qualcuno che non ci aveva mai pensato. Sì, sì, sì. Oh, in ultima, come ultima considerazione, Maurizio, tra l'altro ci sarai anche tu a incontrare il pubblico, se non sbaglio, domani sera alle 21. Sì, sì, sì. Ecco, il Bizzarro Magazine ti dedica questa rassegna con 6 titoli dal 79 al 96, da Ratataplan a l'una e l'altra, e a questo punto ti chiedo se in queste 6 tue opere vedi un filo conduttore a distanza anche di anni, Maurizio. Ma sì, io credo che lo spirito con cui li ho fatti era sempre quello, cioè raccontare la realtà attraverso la fantasia, per cui sì, qualcuno, sì, specialmente sull'una e l'altra, aveva parlato di neorealismo fantastico, che sembra una bestemmia in Italia, perché il neorealismo non ha mai avuto, come dire, l'aggettivo fantastico abbinato in Italia. Però se poi pensiamo che noi abbiamo avuto Fellini, e Fellini, quando faceva Marcord, faceva del neorealismo fantastico, cioè raccontava la sua vita e la sua realtà, però attraverso una lente deformante della sua memoria, della sua fantasia. Ecco, io credo che il filo conduttore, da Ratataplan all'una e l'altra, a Uno Lulu Baby, che poi è del 2001, anche ad altre operazioni che io ho fatto poi negli anni successivi per la televisione e tutto, sia sempre quella di voler raccontare anche un momento drammatico, un momento di crisi. Penso alla disoccupazione giovanile nel 79-80 in Ratataplan, ho fatto Splash, che non è certo passata di moda, purtroppo, anzi sì, sì, è un tema molto, molto attuale anche oggi. oppure ha problemi legati anche all'innamoramento, però fatto con fantasia, cioè non è mai un film piccolo, di una piccola storia d'amore, l'una e l'altra è la storia di una donna che perde l'ombra a volere volare, è una storia d'amore di uno che diventa un cartone animato, c'è sempre un lato fantastico, ma per raccontare sentimenti e realtà molto comprensibili, ecco. I miei film non erano di evasione totale, cioè quando uscivi poi ci pensavi a quello che avevi visto. Anche Stefano Quante Storie, se vi capitasse di rivederlo domani alle 7 al Cinema Trevi, è una riflessione sulla generazione del 68, però fatta in maniera fantastica, non è fatta come La meglio gioventù, che invece ha una cadenza più realistica e più televisiva, cioè più da serialità televisiva. È il racconto di una generazione fatto però con un'ottica più folle, più da cinema, insomma, ecco. Non è un film per la televisione, Stefano Quante Storie. Maurizio, io ti ringrazio, ricordiamo l'appuntamento con Bizzarro Magazine, che dedica al tuo cinema con 6 titoli la rassegna oggi e domani alla Cinema Trevi qui a Roma. Io ti abbraccio, domani ci sarai anche tu a incontrare domani il pubblico. Alle 9 tra Stefano Quante Storie e l'una e l'altra, mentre stasera alle 9 c'è L'Albero di Saponette, che è un altro film che parla di un momento importante per la nascita della televisione commerciale, con la pubblicità che entra nel cinema, ci ha condizionato non poco. Ti abbraccio Maurizio, è stato un piacere, spero a presto. Ciao, grazie. Ciao. Questo era il regista Maurizio Nichetti. Paolo Mereghetti, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi, buongiorno e buon anno. Auguri. Senti Paolo, allora, per ritornare al gioco che facciamo ogni anno con le cinquine dei film usciti in sala che abbiamo più gradito, faccio anche un rapido resoconto. Mancate tu e Valerio San Marco che chiuderete i giochi, ma ancora tutto da decidere, visto che potreste cambiare anche le carte in tavola. Allora, abbiamo avuto i pareri di Alberto Crespi, Steve Della Casa, Maurizio Di Rienzo, Nicola Falcinella, Fabio Ferzetti, Giorgio Gosetti, Emanuela Martini, Anna Maria Pasetti, Federico Pontigia, il mio chiaramente di parere, Mario Sesti, Roberto Silvestri e Giovanni Spagnoletti. Allora ti dico che andando dalle tre menzioni in su, si sono espressi su Gravity, Il passato, Still Life, Il tocco del peccato con 3 preferenze, Django Unchained con 3 preferenze e una menzione, Holy Motors con 5 voti, La vita di Adele con 6 voti e una menzione, idem per La grande bellezza. Ecco, questi sono i titoli che arrivano fino alla testa. Intanto Paolo ti chiederei anche, come ho fatto con gli altri, un bilancio di quest'annata cinematografica e l'Italia in particolare. Ma il bilancio non mi sembra sia stato male, nel senso che al di là di questo stradominio dei blockbuster hollywoodiani, diciamo, rispetto al mercato, sono arrivati sia dagli Stati Uniti che dal resto del mondo, mi sembra che siano arrivati dei film interessanti, dei nomi interessanti. Non mi sembra una stagione brutta, ecco, mi sembra una stagione piuttosto curiosa e stimolante. Un po' meno per quello che riguarda l'Italia, nel senso che nel 2012 avevo visto, mi sembrava che fossero uscite delle cose, dei nomi più interessanti. Io non sono un grande fan della grande bellezza, e però non è che scopriamo o non scopriamo Sorrentino con questo film, mentre nel 2012 avevo visto il film di Alicia Rohrwacher, il film di Costanzo, che mi sembravano delle cose belle, delle speranze buone. Per quello che riguarda l'Italia, forse la cosa migliore è stata questa attenzione nuova al documentario, che è diventato una specie di genere, di nuovo genere, ecco, cioè quello, il tentativo di raccontare con molto realismo la storia di questo paese, anche se forse le cose migliori, non lo so, che il castello di D'Anolfi e Parenti era, se non sbaglio, del 2012, non vorrei sbagliare, e anche, non so, le cose migliori di Rosi vengono prima di Sacro Gra. Comunque. Arriviamo a questo punto alla tua scelta rispetto ai cinque, Paolo. Allora, la mia scelta, secondo me ci ho pensato a lungo, poi le classifiche sono sempre, sono pronto a rimangiarmene il giorno dopo, certo. Però secondo me il film più bello dell'anno è Il tocco del peccato di Gia Zanchè. Nella memoria è un film che cresce, mi sembra, ogni volta che ci penso trovo qualche cosa nuova, quindi io sarei per quello, lo nominerei come il film più bello dell'anno. Poi ce ne sono stati altri che mi hanno molto intrigato. Mi è piaciuto molto Il passato, il Faradì. Forse stupirò qualcuno dicendo che mi è piaciuto molto Lincoln. Non sono un Spielbergiano, gli ultimi Spielberg mi sembravano film molto deludenti. Questo mi sembra un film dove, come dire, la sua ambizione narrativa e la sua voglia di fare grande spettacolo si siano fondati molto bene, messi molto bene in questa, nel film, che cioè nei pochi giorni della storia di Lincoln che racconta. Tra l'altro ha avuto anche altri due voti, per cui non sei solo. E poi io amo moltissimo Venere in pelliccia. Quello è proprio, forse non è forse un film perfetto, non lo so, però lo amo molto. Sono rimasto affascinato dalla prima volta che l'ho visto a Cannes. Trovo il gioco, cioè tutto il meccanismo e come la prova della Chenier è assolutamente gigantesca. Avrei dato il premio a lei a Cannes se fosse stata in giuria, ma da questo punto di vista mi piace veramente molto. Mm-hmm. E siamo a quattro. E poi un quinto per forza un film italiano, quello è fuori discussione. E non so che altri premi ha avuto, ma io premierei Miele. Perché mi sembra che bisogna sempre essere un po' generosi con le opere prime, poi con la seconda si torna a essere cattivi, ma con le prime bisogna essere generosi. E secondo me l'Agolino ha avuto molto coraggio a scegliere un argomento difficile, a fare un film controllatissimo, dove, come dire, anche Jasmine Trinca, che a volte mi convince, a volte meno, qui era veramente perfettamente coinvolta nella parte. Mi sembra che abbia molte qualità e che valga la pena di difenderlo. Benissimo. Questo cambia un po' l'ordine delle cose rispetto alle seconde e terze posizioni. A questo punto poi vedremo i risultati finali. Paolo, per chi ci ascolta, anche ricordaci quali sono state le tue attività cinematografiche dell'anno, al di là cioè tu sei piuttosto noto per il tuo dizionario, che è di... Nel 2013 è uscita la nuova versione la nuova, esatto, versione accresciuta del mio dizionario. È vero, erano 3 anni che mancava. E poi le attività sul Corriere della Sera, le recensioni del Corriere della Sera tutte le settimane. Bene Paolo, io ti ringrazio, ci sentiamo spero anche nel corso della stagione per altre cose. Certamente. Un abbraccio. Buon lavoro e buona giornata. Ciao. Grazie. Auguri di nuovo. Ciao. Questo era Paolo Mereghetti per quanto riguarda le cinquine. Adesso concludiamo con il nostro Valerio. Allora Valerio San Marco, tu chiuderai i giochi oggi. Ah, quindi ho la grande responsabilità di variare gli equilibri, la variabile impazzita. Però ho fatto il gravissimo errore di vedere quali sono stati i film già segnalati, quindi grosso modo io almeno so già come andrà a finire, ecco. Però c'è stato anche Paolo Mereghetti, che però l'ho ascoltato. Influito sulle posizioni di testa, però insomma ha detto la sua su altri titoli importanti. Sì, l'ho ascoltato, su molti titoli mi trovo d'accordo. Io però prima, Valerio, vorrei chiederti anche a te un bilancio di quest'anno, anche per quanto riguarda l'Italia. Ma vedi Federico, di fronte a questo giochino che facciamo ormai ogni anno, no? Poi il gioco finisce, insomma, fine a se stesso, perché ovviamente poi noi magari segnaliamo dei titoli che magari di fronte alle cifre, agli incassi, sono stati forse invisibili, no? Il grande pubblico non ha avuto modo di accorgersi di determinati film che noi riteniamo capolavori. Però la cosa interessante è che quando sappiamo di, appunto, di doverci cimentare in questo giochino, diamo una rapida ripassata a quello che è stato l'anno trascorso. Sì, sì, sì. E devo dire che da un punto di vista qualitativo il 2013 ha fornito grosse indicazioni. Anche secondo me, anche per quello che riguarda il cinema italiano, sono d'accordo con Mereghetti per quello che attiene il discorso relativo alle opere prime, no? Che è un territorio che insomma, per motivi saggistici mi trovo ad esplorare più che altro in termini di numeri e di incassi da qualche anno, però da un punto di vista qualitativo forse ha ragione. Quest'anno, ovvero l'anno appena trascorso, ha offerto forse pochi spunti, no? Per quello che riguarda nuovi registi emergenti, però è servito forse per confermare ed affermare anche al grande pubblico registi forse ancora sconosciuti. Penso a Gianfranco Rosi, no? Dove giustamente Mereghetti dice Sacro Gra forse è inferiore ai film fatti precedentemente da Rosi, però è servito per portarlo all'attenzione di un pubblico più ampio. Sì. Lo stesso si può dire per Manuli con la leggenda di Kaspar Hauser, esattamente. E quindi da questo punto di vista forse è stato un anno di conferme, come sempre giustamente ha detto Mereghetti, Sorrentino, che sia piaciuto o meno, La grande bellezza non serve per confermarci chi è e quanto valga Paolo Sorrentino, però insomma, ecco, tra le giovani / misconosciute leve del cinema italiano è stato un anno che forse è servito per delineare insomma quelle che noi, per noi erano già delle certezze, e forse per il grande pubblico ancora non lo erano. A questo punto diamo i tuoi 5. Sì, guarda, io ho avuto difficoltà a selezionarne solamente 5, quindi ovviamente poi mi servirò delle menzioni. Lascia passare delle menzioni. Esattamente. Allora, togliendolo subito dai giochi e quindi dandogli quel punto in più che servirà per farlo balzare in testa, mi gioco subito la carta della grande bellezza di Paolo Sorrentino. Pensa, non te l'ho detto ieri quando ci siamo visti, ma per esempio Roberto Silvestri l'ha messo tra i peggiori dell'anno, insieme al passato pure. Perfetto, so che anche a Mereghetti non è piaciuto, quindi insomma, beh, è bello che ci sia comunque, certo. Sono sempre molto ben disposto io nei confronti dei titoli che non mettono d'accordo tutti. Sì. Capisco anche il punto di vista di chi non l'abbia apprezzato, però io ritengo sia un film molto importante, un film che racconta la nostra città, in questo vabbè, insomma, al pubblico mondiale interessa fino a un certo punto, però insomma dà una visione di Roma attraverso delle coordinate estetiche, etiche e anche relative al sacro, che insomma quantomeno a livello personale non mi hanno lasciato indifferente, e insomma spero che la maggioranza di chi tra noi è intervenuto a favore del film sulle tue frequenze possa poi garantirgli quella spallata in più per il prossimo 16 gennaio, quando sapremo se è entrato effettivamente nella cinquina dei film in lingua non inglese per gli Oscar. Ok. Per quanto riguarda gli altri film, invece, io sono tornato proprio all'inizio del 2013 Mi sembra uscì il 3 gennaio, se non sbaglio, The Master di Paul Thomas Anderson. Siamo in tre ad averlo menzionato. Beh, tre appassionati di grande cinema, direi. Sì, sì, sì. E pensa, poi io neanche ero prevenuto, perché perché a me, per esempio, Magnolia non era piaciuto. Io non ero un grosso stimatore di Paul Thomas Anderson. Guarda, tra i film che ha fatto hai citato quello che a me è piaciuto meno, di Paul Thomas Anderson, però ritengo, ecco, che Boogie Nights e lo stesso Petroliere, film dove tra l'altro, insomma, qui nel piccolo della nostra redazione vengo continuamente preso in giro perché l'ho amato moltissimo, però ecco, ritengo che comunque The Master prosegua quel percorso anche non solo contenutistico ma anche strutturale, che accompagna il cinema di Paul Thomas Anderson. Non a caso un film realizzato e pensato per la visione in 70 mm, quindi insomma, dove poi ha avuto difficoltà magari in determinate sale ad essere apprezzato da quel punto di vista per il meglio, però credo che per raccontare l'epopea di quell'uomo, no, senza madre né padroni, interpretato da uno stratosferico Joaquin Phoenix, servisse proprio anche un discorso relativo all'estetica, all'immagine, che garantisse quell'ampio respiro per un'opera, secondo me, veramente determinante del 2013. E lo stesso, per quanto mi riguarda, vale per un film che qui da noi è uscito in sordina e a Cannes non ha ricevuto le giuste attenzioni che meritava. Ricordiamo l'anno che in presidenza di giuria c'era Nanni Moretti, Holly Motors di Leo Scarax, che credo sia anche qui un film decisivo per quello che riguarda il discorso relativo veramente alla fruizione di un'opera filmica. Sì. Un film folle, geniale, che riporta, secondo me, ai prodromi dell'origine, la bellezza del gesto cinematografico, dove veramente si pensa all'azione sacralizzandola. Non so, insomma, molti magari non l'hanno visto, non sanno neanche di che cosa stia parlando, ma è un film interpretato da questo attore fedele poi tra l'altro al regista francese Denis Lavant, che si cimenta durante un'intera giornata in molteplici trasformazioni. Prende una giornata tipo di un essere umano che si presta a fare interpretare un ruolo, quindi su questo camerino mobile, che è una limousine, anche qui insomma simbolo non a caso relativo ad un mondo, quello appunto dei giocattoloni futuristi che oggigiorno stanno ritornando sulle nostre strade. Pensiamo anche nella nostra città, quando vediamo queste macchine a noleggio anche fuori tempo massimo, se vogliamo. Sì. In questa limousine quest'uomo si cambia in continuazione, assume ogni volta un determinato ruolo, e in un film che è appunto una sorta di flusso ininterrotto che regala, secondo me, agli occhi e alla mente, insomma, momenti di grandezza difficilmente dimenticabili. Bene. A questo punto ti rimangono due titoli. L'altro, anche qui ritorniamo all'inizio del 2013 perché era febbraio, uno dei film forse più sottovalutati dell'intero 2013, Zero Dark Thirty di Catherine Bigelow. Sì. Che racconta, questo, beh, insomma, ha avuto comunque da un punto di vista mediatico forse più attenzioni, quindi molti sapranno, insomma, il film della regista di The Art Locker, che questa volta si concentra sugli sforzi profusi dalla CIA nel corso di 10 anni per garantire alla giustizia o alla morte alla morte. Il nemico pubblico numero uno, quindi Bin Laden. Ed è un film insomma senza respiro, un film che rappresenta in pieno quelle che sono le caratteristiche più lampanti della cineasta statunitense, premio Oscar non a caso per The Art Locker. dove qui con questo film ottenne 5 nomination, ma incredibilmente nessuna per la regia. Ed è un film fiume, un film lungo 2 ore e mezza se non ricordo male, che racconta appunto, poi si concentra su un personaggio in particolare interpretato da Jessica Chastain, cioè l'analista dell'agente della CIA, che più di ogni altro ha portato avanti questa ricerca indefessa per garantire appunto la fine di Osama Bin Laden. Ed è un film secondo me molto accattivante, un film che ricorda moltissimo da un punto di vista strutturale una delle serie TV più importanti e seguite degli ultimi anni, ovvero Homeland, e che garantisce secondo me il giusto mix tra cinema d'autore e cinema di intrattenimento. Sì. E poi l'ultimo titolo, qui siamo insomma andiamo a parlare di un titolo più recente per quello che riguarda l'uscita nelle nostre sale, anche se è un film che ormai ha una vita lunga, perché ha avuto gli onori della cronaca al Festival di Cannes, ed è ovviamente La vita di Adele di Abdel Kechiche. E quindi qui stravolgo nuovamente il conteggio per quello che riguarda tutto torna come prima in testa, esatto. Quindi non ho risolto niente, dovrei chiamare qualcun altro. Ma va bene anche così, direi. E per quanto riguarda Kechiche, insomma, io ammetto di avere una predilezione pressoché totale nei confronti del regista franco-algerino, che insomma va avanti dai tempi della Schivata, che si è consolidata con Couscous, che è diventato Amore totale con Venere nera, altro film uscito da noi nel 2008-2009, adesso non ricordo bene, e che ebbe ovviamente nessun tipo di seguito. E in questo caso appunto la vittoria della Palma d'Oro ha garantito comunque, se non proprio in termini di incassi lusinghieri per quello che riguarda l'Italia, però comunque un'attenzione anche per le sterili polemiche susseguenti, insomma, poi quando a ridosso dell'uscita uscì fuori tutto il discorso delle attrici capitanate da Léa Seydoux, insomma, che parlavano della violenza tra virgolette psicologica esercitata dal regista per garantire quell'incredibile realismo in determinate scene del film. Però insomma io ritengo sia un film che ci costringe a ragionare proprio nei confronti del cinema, pensandolo a qualcosa che non è più semplicemente una fruizione passiva, ma che ti obbliga ad andare oltre quello che vedi sullo schermo, ad entrare completamente ad empatizzare totalmente con le vicende di chi ci troviamo di fronte. Sì, sì. E letterariamente, cioè proprio letteralmente, mette a nudo quello che è insomma una formazione emotiva, sentimentale di questa straordinaria protagonista, interpretata appunto da Adele, oddio, il cognome impronunciabile. Un Adele, sì, comunque Adele, anche qui, Adele insomma, veramente. Anche qui, insomma, garantendo quella realtà, no? Già, sì, sì. Insomma, intitolando il film con lo stesso nome dell'attrice che interpreta il personaggio principale. Sì. Oh, Valerio, a questo punto diamo i risultati finali. La grande bellezza e la vita di Adele a pari merito, prime con 7 voti e una menzione ciascuno. Holy Motors in terza con 6 voti, poi Django Unchained con 3 voti e una menzione. No, però prima c'è Il tocco del peccato, quarto, con 4 voti, è vero, perché l'ha votato Paolo Mereghetti, e quindi quarto Il tocco del peccato con 4 voti, poi Django Unchained, 3 voti e una menzione, e poi con 3 voti ancora Gravity, Il passato, Still Life, The Master e Zero Dark Thirty. È tutto, siamo a 10 titoli poi alla fine, vedi? Ah, abbiamo fatto la decina. La decina. Valerio, io vabbè adesso non rovinerò nulla, perché con le menzioni insomma credo che i giochi si cambino relativamente. Sì. Io ci tenevo appunto a menzionare altri 2 lungometraggi che sono Re della Terra Selvaggia di Ben Zeitlin. Sì. E, Still Life di Umberto Pasolini, poi un film che ho amato moltissimo che è il documentario su Sixto Rodriguez, Sugar Man. E colgo l'occasione insomma per segnalare che a fine gennaio uscirà anche in home video distribuito da Feltrinelli, e poi un film che ho avuto la fortuna di vedere all'ultimo Festival di Roma e che ahimè temo probabilmente in sala non vedremo mai, ed è l'opera postuma di Alexei Yurevich German, ovvero È difficile essere un dio. È difficile essere un dio. Capolavoro immortale, secondo me. Bene. Valerio, io ti abbraccio, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio anche a te e a tutti auguri. Gli ascoltatori. Ciao. Questo è Valerio San Marco. Fabrizio Gifuni, ci siamo sentiti a fine anno, ci sentiamo di nuovo all'inizio del 2014, ben ritrovato, questa volta per parlare di cinema, anche ciao, stavolta, Federico, buongiorno. Perché l'ultima volta ci siamo incontrati per in occasione delle fiamme dell'ingegner Gadda, il documentario di Mario Sesti, con cui insomma nel quale hai partecipato, ma poi sei stato anche alla serata al Teatro Valle Occupato per un piccolo assaggio di quel che è il tuo lavoro teatrale sull'opera di Gadda. In questa occasione invece per l'uscita in sala del film di Paolo Virzì, Il Capitale Umano, che esce oggi in tutta Italia. Fabrizio, allora, intanto per chi ci ascolta, come lo racconteresti in breve? È una bella domanda. Diciamo, intanto, se lo dovessi raccontare in breve, senza pudore, diciamo, senza, così, senza troppi formalismi, direi che è un film bellissimo come prima cosa. Questo è un giudizio da spettatore prima che diciamo che da attore che ci ha lavorato. Sì. Credo che Paolo abbia fatto veramente un grande film basandosi su un romanzo molto bello, un romanzo americano di Stephen Hamilton, ambientato nel Connecticut, che Paolo insieme a Francesco Bruni e Francesco Piccolo, che sono gli altri due sceneggiatori, hanno trasposto nella Brianza. Ecco, tu prima parlavi di Gadda, ecco, passiamo diciamo dalla Brianza della cognizione del dolore di Gadda alla Brianza di oggi. La storia, tanto nel romanzo originale quanto nella trasposizione del film, è ambientata, anzi nella trasposizione italiana è ambientata nel 2011, cioè diciamo pochi anni fa, nel romanzo americano subito dopo le Torri Gemelle. La storia racconta la storia di due famiglie, sostanzialmente ruota attorno le vicende di due famiglie, la famiglia dei Bernaschi, che è la mia famiglia, Giovanni Bernaschi, questo mago della finanza tossica, è il personaggio che io interpreto ed è appunto il capofamiglia in tutti i sensi di questa ricca famiglia, e l'altra invece è quella di Dino Ossola, che è interpretato da Fabrizio Bentivoglio, che ha per compagna Valeria Golino, mentre mia moglie è Valeria Bruni Tedeschi, e Bentivoglio invece è un piccolo immobiliarista che tenta il salto, sì, diciamo, sì, sì. Investendo soldi che non ha sostanzialmente in questo fondo miracoloso del Bernaschi. Il film racconta così come tutto questo grande tema della finanza virtuale, della finanza anche tossica, diciamo, della finanza che non produce ricchezza per la comunità, si rifletta poi sulle esistenze quotidiane, sì. E quindi con un meccanismo narrativo molto, molto bello, insomma, molto vivace, che è quello di scegliere tre punti di vista di tre personaggi e di rivedere la storia da ognuno di questi tre punti di vista. Seguiamo un po' questa storia, che è anche un thriller, è anche un noir, perché c'è un cameriere di un ristorante che viene investito all'inizio del film, quindi in parallelo seguiamo anche questa vicenda che interessa queste due famiglie, sì, in qualche modo. Sì. Insomma, è un film che contiene tante cose e dove Paolo è riuscito a mettere in campo un'umanità complessa, anche disperata, senza nessun giudizio moralistico, tentando appunto di avvicinarci a questa umanità a cui insomma siamo oramai da diversi anni sì, abituati sì. Così, a vedere e a incontrare. Oh Fabrizio, sicuramente per quello che mi riguarda il miglior film di Paolo Virzì. Volevo chiederti, adesso hai anche un po' fatto alcune considerazioni da spettatore, però volevo chiederti anche cos'è che ti ha avvicinato al progetto invece da attore? Ma intanto la sceneggiatura, che è sempre la prima cosa, che quasi sempre una delle prime cose che un attore incontra, sì, insomma, sì. Alle volte incontri prima il regista, alle volte incontri prima la sceneggiatura. Io ho fatto così un incontro con Paolo in cui mi ha raccontato un po' il progetto, e poi immediatamente dopo ho letto la sceneggiatura, che è stata la prima cosa che mi ha conquistato. Paolo naturalmente lo conoscevo per tutto il suo lavoro ed ero molto felice insomma che si creasse una possibilità di lavorare insieme a questo. Però c'è una sceneggiatura che è stata una delle sceneggiature più belle che io abbia mai letto negli ultimi anni, che mi ha colpito immediatamente, e questa è stata la prima cosa insieme al mondo di Paolo. Poi c'è stata la felice una felice congiuntura che è quella che si cerca sempre al cinema. Il cinema è una macchina complessa che ha tanti fattori e non sempre tutti questi fattori, anzi quasi mai, si allineano, insomma, no? La storia, la sceneggiatura, la regia, sì. Il cast di attori, la produzione, il modo di vivere il set, ci sono tante cose che contribuiscono poi a far prendere a un film una direzione anche rispetto a un'altra. Ad esempio, partendo da una sceneggiatura molto bella, la paura è sempre che il film non sia all'altezza della sceneggiatura, no? Sì. E invece in questo caso devo dire che ecco, il film, se è possibile, così con una regia davvero formidabile di Paolo, è riuscito a esaltare ancora di più questa scrittura, che era già una scrittura molto bella, sì. E poi questo personaggio che per me insomma in questi giorni Paolo l'ha detto più volte, insomma, finalmente dopo tanti personaggi edificanti, sì. Da Basaglia, Moro eccetera, così lo stesso personaggio che 10 anni fa interpretai nella Meglio Gioventù, che è una specie di doppio di questo, cioè diciamo che è il doppio pulito. Quello era l'economista che sognava un'economia pulita, quanto questo è appunto cinico, rapace, uno squalo. Anche se appunto poi la grande fortuna di lavorare con Paolo è che non si raccontano mai né le storie né i personaggi con una faccia sola, no? Sì. Quindi anche i personaggi che all'interno del racconto portano avanti una funzione appunto, diciamo, più negativa che positiva, come il mio personaggio, non sono mai tagliati con l'accetta, non è mai bianco e nero, quindi sì. È stato bello anche riuscire a raccontare all'interno di un personaggio appunto cinico, rapace, ego riferito, sia dentro che fuori dalla famiglia, sia nel lavoro che all'interno della sua famiglia, che tratta appunto così naturalmente, come se fosse anche quella un po' la sua piccola azienda, insomma, no? Il suo piccolo fondo, sì. Però c'è appunto anche allo stesso tempo un carico di disperazione e di umanità che è stato bellissimo tirare fuori. Il capitale umano è in fondo è questo, proprio sì. Il titolo è questo, sì, cioè sì. Il capitale umano è quell'algoritmo che le compagnie di assicurazione stabiliscono per determinare quanto costa una vita umana quando c'è un incidente e qualcuno muore, no? Cioè sì, quanto la resa economica di una vita. Insomma. La vita, sì, esatto, cioè la vita, ognuno di noi ha un cartellino con un codice a barre in cui a seconda appunto di tutta una serie di parametri viene stabilito il tuo prezzo. Sì, sì. E il film insomma va all'osso di questa questione, sì, no? Il rapporto tra uomini e denaro, e con tutte le sue implicazioni. Ed è anche un altro grande, ed è anche un altro tema, grande tema, è quello del rapporto padri-figli, sì, e all'interno delle famiglie, che insomma secondo me è molto, tra l'altro ci sono tre ragazzi bravissimi, come hai visto, proprio tre, sì, giovani, sì, sì, sì, due esordienti, completamente esordienti, Matilde Gioli e Guglielmo Pinelli, e Giovanni Ansaldo, che è già un bravissimo giovane attore di teatro, che fanno appunto la parte dei ragazzi, che sono abbastanza straordinari. Mm-hmm. Fabrizio, io ti ringrazio, un abbraccio, no, e a risentirci, grazie, presto. Grazie, ciao, grazie. Ancora a tutti. Buon anno, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Fabrizio Gifuni, protagonista, coprotagonista del film Il Capitale Umano di Paolo Virzì, in uscita oggi in sala. La regista Emma Rossi Landi, ben ritrovata e auguri. Grazie, ciao Federico, auguri a te. Allora, per con te, per parlare di un'importante iniziativa di Doc It, il mese del documentario. Alla Casa del Cinema, a partire dal 13 gennaio fino al 22 febbraio. Per chi ci ascolta, Emma, raccontaci un po' di cosa si tratta. Allora, il mese del documentario è alla sua seconda edizione e l'anno scorso è nato unendo due iniziative che già esistevano, che erano il Doc It Professional Award, che è il premio di categoria di Doc It al miglior documentario italiano, e Doc International, che è una rassegna che mostra i cinque migliori film dell'anno precedente internazionali, insomma quelli che diciamo hanno vinto i grandi festival internazionali. E dall'anno scorso abbiamo unito queste due iniziative nell'intento di rendere questi film più possibile visibili in sala e appunto alla Casa del Cinema attraverso queste cinque settimane, quindi con il proposito di creare un appuntamento ricorrente ogni settimana in cui c'è la possibilità di vedere appunto due film, uno italiano e uno internazionale, e poi in replica durante il fine settimana. L'anno scorso l'iniziativa è andata molto bene, siamo stati molto felici perché uno dei nostri propositi era proprio quello di dimostrare che un pubblico del documentario esiste e che gli spettatori italiani diciamo sono curiosi di vedere cosa, forme anche di cinema diverso a quello diciamo commerciale che ci vengono proposte di solito, insomma. E appunto abbiamo avuto l'anno scorso quasi il tutto esaurito, quasi in tutte le proiezioni, e quindi quest'anno abbiamo dato il via alla seconda edizione, che appunto comincia il 13 di gennaio, e quest'anno poi non sarà solo a Roma ma anche in altre 12 città italiane e europee. Bene, bene. È stato bello perché diciamo ci siamo allargati molto spontaneamente, tantissimi amici, conoscenti, persone residenti sul territorio nazionale e anche europeo, hanno espresso il desiderio di poter vedere e mostrare questi documentari, e quindi quest'anno abbiamo circa 100 proiezioni in 5 settimane e siamo molto felici di questo perché appunto crediamo che il documentario sia una forma di cinema molto importante, che vederlo in sala sia particolarmente bello, e che se una distribuzione non esiste noi possiamo creare una rete per far vedere bene, bene, questi film. Bene, Emma. Allora, intanto forse l'hai già detto all'inizio, però volevo rendere chiaro quante sono le opere che presenterete. Allora, sono 10 film, 10 film, 5 italiani e 5 stranieri. A questo punto diamo anche i titoli. Eh sì, allora, gli italiani te li do in ordine di proiezione. Va bene. Diciamo, facciamo che ti do a settimane. La prima settimana abbiamo Le cose belle di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno, sì, il lunedì. Il mercoledì, la prima settimana di mercoledì, mentre le successive saranno di giovedì, c'è cioè T.E.O. Electricity, che è un documentario di un regista belga, Jérôme Lamer, ambientato in Marocco, un bel documentario molto interessante con una tematica molto forte. La seconda settimana c'è Il libraio di Belfast di Alessandra Ceresia e Stories We Tell di Sara Polli. Sì. E la terza settimana c'è Il gemello di Vincenzo Marra e The Machine Which Makes Everything Disappear di Tilly Ann, Tina Tim Burgiani si chiama, sì. E poi la quarta settimana Materia Oscura di Danolfi e Parenti, e il giovedì per l'internazionale invece Colmi Cucciu, che è un film molto forte sui movimenti gay e lesbiche in Uganda, e quindi anche su tutta la repressione che c'è a riguardo. E l'ultima settimana, per finire, abbiamo Noi non siamo come James Bond di Mario Balsamo, e Rent a Family, che è Rent a Family Inc., che è un documentario ambientato in Giappone di un regista danese, e anche questo un documentario molto particolare, anche abbastanza divertente. E poi il 21 di febbraio ci sarà la premiazione, come l'anno scorso c'è il premio del pubblico, sì. E quindi sia a Roma che in tutte le altre città gli spettatori potranno votare il loro film preferito, e ci sarà anche un premio del pubblico europeo, quindi le città europee che partecipano, che sono Londra, Parigi, Berlino e Barcellona, con la collaborazione degli istituti italiani di cultura, insomma, in queste città stanno organizzando un premio del pubblico anche per gli spettatori europei, quindi Beh. Vedremo se sarà lo stesso film oppure se saranno film diversi, sì. Insomma, sarà curioso vedere. Senti, vai vai, continua, stavi dicendo un altro. No. Volevo chiederti, Emma, questi cinque italiani quali meccanismi hanno portato a decidere quali fossero? Allora, il The Kid Professional Award ha un lunghissimo processo di selezione che non viene fatto da noi dell'organizzazione del festival. Praticamente, tutti i film che sono stati in qualche maniera distribuiti, quindi o proiettati, visti in un festival o trasmessi in televisione, possono partecipare al The Kid Professional Award. Questi film si iscrivono, quest'anno sono stati 96, e vengono visti scremati, diciamo, da un comitato scientifico composto da esperti del settore, direttori di festival, giornalisti e via dicendo. Questi, che quest'anno erano 34 persone, selezionano circa 25-26 film, quest'anno erano 26, che poi vengono visti online da un'academy di professionisti. E questi professionisti sono tutte persone che lavorano nell'ambito del documentario. Hanno votato quest'anno 150 persone e hanno scelto questi 5 film. Senti, Emma, invece c'è la possibilità di incontrare gli autori insieme alla... Sì, ah, okay. Assolutamente, a tutte le proiezioni romane saranno presenti gli autori, okay. Invece questo per i film italiani. Per i film internazionali invece ci sarà l'incontro Skype. Bene. Quindi ci sarà sempre comunque il dibattito dopo la proiezione. Ci lasci i riferimenti internet per il programma? Assolutamente, okay. Il sito è www.ilmese.documentaristi.it. C'è la pagina Facebook, che è molto attiva, che è Il Mese del Documentario, e l'account Twitter Il Mese Doc. Emma, io t'abbraccio, di nuovo auguri, a risentirci a presto. A te, grazie tantissime. Ciao Federico, ciao a tutti. Ciao. Questa è Emma Rossi Landi per Il Mese del Documentario, alla Casa del Cinema, dal 13 gennaio al 22 febbraio. Allora, chiudiamo il discorso con Luca Peretti, con il quale stavamo parlando del libro di cui è coautore, Immagini di Piombo, Cinema, Storia e Terrorismi in Europa. Io ti dicevo di un rimosso e anche di un distorto di cui è vittima, insomma, la storia politica degli anni 70, di quella rivolta, della conflittualità di massa che ha caratterizzato quel decennio, ma non solo qui in Italia, sia a livello bibliografico che a livello cinematografico. Insomma, il materiale non è così tanto, e allora ti chiedevo di questo e anche del resto d'Europa, Luca. Sì, guarda, come dicevo prima appunto che il passaggio dalla metro a termini ci interrompesse, per quanto riguarda il materiale cinematografico è poco e ci sono delle difficoltà a fare questi film, e stavo dicendo appunto che lo dimostra anche l'orrida fiction televisiva di ieri e l'altro ieri sera, gli anni spezzati su Rai 1, per cui appunto si replica una narrativa sempre uguale, in cui i comunisti sono i cattivi, sono sempre i colpevoli e via dicendo. Da un punto di vista bibliografico, insomma, basta andare in ogni libreria e vedere che le pubblicazioni su quel periodo si moltiplicano, mancano in generale delle riflessioni storiografiche, ma mancano anche delle riflessioni appunto sull'immaginario di quel tempo, di cui naturalmente i film e la televisione, sia quelli che raccontano retrospettivamente sia quelli coevi, sono una parte. Sì. Quindi su questo settore mi pare ci sia ancora molto da lavorare. Sì, sì. Oh, per quanto riguarda l'Italia, anche in confronto al materiale invece europeo, a livello cinematografico, secondo te quali sono le caratteristiche di questa narrazione? Beh, c'è una tendenza, diciamo, appunto a dividere in maniera molto forte buoni e cattivi, c'è una sorta di paradigma vittimario che appunto si sta sviluppando in più settori, c'è un'enorme difficoltà a cercare di ricostruire le motivazioni appunto degli inizi della lotta armata in Italia, che è un tema assolutamente tabù, se pensiamo appunto a un documentario come Il Sol dell'Avvenire, che non ha visto quasi nessuno e che ha avuto molte difficoltà, o La prima linea, che era un film che doveva essere in un modo ed è diventato in un altro modo, appunto completamente studendo le motivazioni che hanno portato alcune persone a prendere in mano le armi. Quindi, diciamo, quello è ancora un grosso tabù e non si vede appunto nessun miglioramento in proposito. A livello europeo si cita sempre il caso della Germania, ma anche lì, a parte alcuni film fatti molti anni fa, i film nuovi, pensiamo a Banda Bademeinhof, che secondo me è un bel film, ma un film assolutamente pop, che anche lì appunto tenta molto poco di ricostruire, sì, alcune dinamiche con una certa profondità. Anche se Luca, dello stesso regista ci fu Stammheim, che invece era basato sugli atti processuali e quindi anche sulle dichiarazioni degli imputati, che invece era di tutt'altra pasta. Insomma, mi sembrava, sì, un buon lavoro. Sì, no, certo che è anche un buon lavoro, però anche lì appunto sulle origini c'è molto poco, sì, cioè, e quello credo sia molto discriminante, ecco. Sì, sì, sì. Senti, per il resto in Europa che cosa c'è di diverso invece? Ma intanto ci sono i soldi, nel senso, un film come Carlos, che magari avrà anche dei limiti, ma che è un affresco eccezionale, in Italia non si fa, e poi c'è forse una sensibilità diversa, ci sono degli interessi diversi, però io non sono tra quelli che crede che molti altri paesi europei hanno fatto i conti col passato meglio di quanto li abbia fatti l'Italia. Mi pare che ci sia una riflessione ancora più globale da fare. Sì, sì, ecco, in questo volevo chiederti anche quante sono le opere che avete preso in considerazione. Ma questa è stata, diciamo, è stato abbastanza lasciato a ogni singolo autore, diciamo che poi ogni singolo autore almeno una decina di opere le ha discusse. Nel mio saggio, per esempio, io ho discusso i film che non esistono, cioè dei progetti abortiti, e ne ho affrontati una decina. Non è più che un lavoro, diciamo, in cui si è discusso di molte opere, è più un lavoro qualitativo, diciamo, ecco. Sì, sì. Oh, a questo punto ti chiedo informazioni in proposito, sia online, in internet, che prossimi appuntamenti di presentazione. Dunque, il libro è uscito per una casa editrice che si chiama Post Media Books, e appunto digitando su Google si trova il sito della casa editrice e si può acquistare lì, o appunto su IBS, Amazon, nelle librerie. E domani lo presentiamo a Pisa con la proiezione di San Babila, ore 20, Filippo Inutile, che è un film eccezionale di Lizzani, uno dei pochi film appunto sulla violenza neofascista in Italia, e la presentazione è alle 6:30, e poi ci saranno altre presentazioni a maggio. Mm-hmm. Oh, ecco, poi un'ultima domanda riguarda invece una considerazione che stavo facendo mentre ci siamo parlati prima, quando è caduta la linea, ovvero rispetto alla lotta armata del dopoguerra, i casi più importanti in Europa mi sembrano quelli italiani, francese e tedesco, mentre per quanto riguarda le lotte di indipendenza, soprattutto i Paesi Baschi e l'Irlanda. E dal punto di vista cinematografico questo comporta anche delle differenze rispetto alle due tipologie di lotta. Ah, certo, no, parliamo di cinematografie assolutamente diverse, di modi di rappresentare queste lotte assolutamente diverse. Dicevo, quello che dicevo prima che cadesse la linea è appunto che se l'abbiamo messa insieme è soltanto per un discorso tra virgolette metodologico, cioè che i film che parlano di queste varie lotte lo fanno sempre che scrivendo appunto azioni clandestine e azioni rapidi, ma non non c'è all'interno del libro, abbiamo lasciato una certa libertà agli autori, non c'è all'interno del libro una volontà di definire che cosa sia, che cosa non sia terrorismo. E per quanto riguarda il cinema è certo che le riflessioni che sono state fatte in ambito cinematografico in Islanda, quelle che sono state fatte per i Baschi piuttosto che in Italia sono completamente diverse, non c'era diciamo la volontà di accomunarle in nessun modo. Luca, io ti ringrazio, magari ci sarà modo di parlarne nuovamente, si spera anche in vista di presentazioni romane. Va bene, ti ringrazio, un abbraccio, ancora auguri agli ascoltatori. Ciao Luca. Bene, avremmo dovuto sentire anche Pippo Del Bono, al quale il Nuovo Cinema Aquila dedica una rassegna in occasione della quale ci sarà anche la presenza in sala di Pippo Del Bono. Si è cominciato il martedì 7 con Guerra, ieri è stata la volta di Grido, oggi è tocca a La Paura, venerdì Amore e Carne e poi dall'11 al 22 gennaio è la volta di Sangue per quanto riguarda Pippo Del Bono. Comunque a questo punto per le informazioni basta andare sul sito internet del Nuovo Cinema Aquila per maggiori dettagli e informazioni su questa rassegna. È tutto per quanto riguarda Visionari, vi rimando per quanto riguarda le informazioni della scaletta, ma non solo la scaletta di oggi, al sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, c'è anche la pagina Facebook di Visionari, mentre l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Ci sentiamo la settimana prossima sempre dalle 14 alle 15.